Storie italiane. La donna e il leone. C'era una volta un mercante che aveva 3 figlie. Le amava molto, specialmente la più giovane, Amelia, che era la sua preferita. Un giorno, mentre stava partendo per un lungo viaggio di lavoro, chiese alle sue figlie cosa desideravano in dono. Io vorrei avere un bellissimo filo di perle. Io vorrei dei diamanti scintillanti. Caro padre, vorrei un bellissimo usignolo canterino. Molto bene, figlia mia. Se riesco a prenderlo, allora lo avrai. Disse addio alle sue figlie e se ne andò. Il mercante comprò le perle per la figlia maggiore e i diamanti per la seconda figlia. Cercò ovunque un usignolo canterino, ma tutto invano. Questo lo preoccupava perché Amelia era la sua preferita e non voleva turbarla. Il suo viaggio lo portò in una foresta. Andò avanti e ancora avanti finché non trovò un magnifico castello con un alto albero al lato di esso. Su quell'albero sedeva un bellissimo usignolo che cantava magnificamente. Ah, ti ho trovato al momento giusto. Sali su quell'albero e prendi quell'usignolo per mia figlia. Proprio mentre l'aiutante stava per avvicinarsi all'albero, un leone saltò fuori da dietro l'albero e ruggì così forte che le foglie sull'albero tremarono. Chi osa rubare il mio usignolo? Ti mangerò, ladro! Le mie scuse, oh potente leone, non sapevo che l'uccello fosse tuo. Per favore, risparmia la mia vita, ti pagherò un riscatto per il mio errore. Nulla può salvarti se non prometti di darmi la prima cosa che incontrerai quando tornerai a casa. Se sei d'accordo, ti risparmierò la vita e ti darò anche l'uccello. Ma, e se fosse la mia Amelia? Non preoccuparti, signore. Non è sicuro che tua figlia sia la prima di incontrarti. Potrebbe essere solo un gatto o un cane. Il mercante ne fu persuaso. Prese l'usignuolo e fece la sua promessa al leone e se ne andò verso casa. Quando il mercante arrivò a casa, la figlia più piccola, Amelia, corse verso di lui e lo abbracciò forte. Dopo aver visto che aveva portato l'usignuolo, fu piena di gioia. Il commerciante non poté rallegrarsi e cominciò a piangere. Mia cara Amelia, mi è costato molto. Ho dovuto promettere al principe leone che gli avrei dato la prima cosa incontrata una volta tornato a casa. Temo che ti farà pezzi quando ti avrà fra le sue zampe. Il commerciante spiegò tutto quello che era successo. Oh, padre, una promessa è una promessa e deve essere mantenuta. Devo andare dal principe leone. No, per favore, ti ucciderà. Nulla può cambiare ciò che è scritto nel mio destino. Non è ciò che ci ha insegnato, padre? Il mercante fu colto di sorpresa. Non preoccuparti, padre. Il mio cuore mi dice che starò bene. E il cuore ha sempre ragione. Un'altra cosa che ci ha insegnato. Il giorno successivo, Amelia partì per la foresta mentre suo padre e le sue sorelle piangevano mentre la salutavano. Spero che il principe leone sia gentile con lei e che potremo rivedere la vostra sorellina. Il leone era in realtà un principe incantato. Di giorno era un potente leone, come tutti i suoi seguaci, e di notte si trasformavano di nuovo in forma umana. Quando Amelia raggiunse la foresta, fu accolta con gentilezza e portata al castello su una carrozza d'oro, guidata da leoni. Quando Amelia entrò nel castello, fu accolta da un branco di leoni pieni di doni per lei. Benvenuta, mia bella regina! Vedo che tuo padre ha rispettato la sua promessa e sono contento che tu sia stata la prima ad incontrarlo, perché sei molto bella. Sarò onorato di averti come moglie. Sono molto lusingata, ma non condivido la tua felicità, perché tu sei un leone, eh? Proprio in quel momento un raggio di luna brillò attraverso la finestra e il principe leone si trasformò magicamente in un principe azzurro di fronte a lei. In realtà sono un principe e siamo sotto un incantesimo che ci rende leoni di giorno. Amelia sorrise perché era felice e innamorata del principe leone. Amelia accettò di sposare il principe e il matrimonio venne celebrato immediatamente con la dovuta magnificenza. Vissero felici insieme, come farebbero i leoni, dormendo tutto il giorno e restando svegli tutta la notte. Un giorno il principe leone le si avvicinò e disse: «C'è un festival a casa di tuo padre domani per celebrare il matrimonio di tua sorella maggiore. Se lo desideri, i leoni potrebbero scortarti». «Sarebbe così adorabile! Sono così ansiosa di vedere mio padre!» «Allora chiamerò immediatamente i leoni e ti porteranno lì in grande stile!» «Ma, principe mio, non andrò da sola! Verrai anche tu!» «Mia regina, è troppo pericoloso, perché se anche un piccolo raggio di luce dovesse toccarmi, mi trasformerei in una colomba e dovrei volare in giro per 7 anni!» «Non preoccuparti, farò in modo di proteggerti e di tenerti lontano da ogni raggio di luce». E così il principe e la principessa si misero in viaggio per il matrimonio. Il commerciante e le sue figlie furono felici alla vista di Amelia e furono felici di conoscere il principe leone. Accolsero il principe leone con amore. La principessa fece costruire una grande sala con pareti così spesse che nessun raggio di luce avrebbe potuto penetrare attraverso esse. È qui che il leone andava a riposare quando si accendevano le torce e le candele, ma poiché il legno era fresco, si spezzò, creando una crepa così piccola che quando la processione di persone con torce e candele fu di ritorno dalle nozze, un piccolo raggio di luce dalle dimensioni di un capello colpì il principe leone. Nel giro di un secondo il principe si trasformò in una colomba. Quando Amelia tornò, non vide altro che una colomba bianca seduta lì. «Per i prossimi 7 anni dovrò volare e ad ogni tuo 7° passo lascerò cadere una piuma bianca. E se la seguirai, potrai liberarmi». La principessa Amelia iniziò a seguire la colomba bianca mentre una piuma bianca cadeva ad ogni 7° passo per mostrarle la strada. Con il passare dei 7 anni, Amelia seguì la scia di piume bianche fino in fondo senza mai fermarsi. «Oh, sono così felice che questi 7 anni siano quasi finiti! Presto saremo liberi dai nostri guai!» Ma passò molto tempo prima che la principessa Amelia e il principe fossero liberi. Un giorno le piume bianche cessarono di cadere e Amelia si preoccupò. «Un uomo non può essermi d'aiuto!» La principessa Amelia si arrampicò su un albero e chiamò il sole. «Oh sole, così luminoso brilli, dalle valli alle cime delle montagne, dalla terra a me. Sai dove trovare la colomba bianca per me?» «No, bambina, non ho visto una colomba bianca. Ma prendi questo piccolo scrigno e usalo quando ne avrai un disperato bisogno». «Grazie mille!» La principessa Amelia continuò a cercare il suo principe fino al calare della notte. Quando la luna brillò, la chiamò e le chiese: «Oh, bella luna, brilli tutta la notte, oltre il campo e la foresta. Hai visto una colomba bianca volare?» «No, non l'ho vista, ma ecco un uovo. Aprilo quando ne avrai bisogno». La principessa Amelia ringraziò la luna e continuò a cercare il principe. Mentre soffiava il vento notturno, chiese: «Soffi tra gli alberi e le foglie. Hai visto passare una colomba bianca?» «Ho visto la colomba bianca, è volata via nel Mar Caspio, dove ha riacquistato la sua forma di leone e sta combattendo con un potente drago che è una principessa incantata di nome Asteria. Ecco una bacchetta magica, vai sul Mar Caspio e puntala verso il drago e di abracadabra. Successivamente il leone sarà in grado di dominare il drago ed entrambi recupereranno la loro forma umana. Dopodiché troverai un maestoso grifone alato che abita sul Mar Caspio. Salta sulla sua schiena con il tuo amato principe e vi riporterà attraverso il mare. Lascia la bacchetta magica quando sarai in mezzo all'oceano e da essa cresceranno immediatamente alberi alti che mostreranno al grifone la via per attraversare il mare». Amelia ringraziò il vento e iniziò il suo viaggio. Quando raggiunse il Mar Caspio, trovò il principe leone e il drago che combattevano. Tirò subito fuori la sua bacchetta magica e la puntò verso il drago. «Abracadabra!» La magia della bacchetta magica colpì il drago, che cadde a terra. Il principe leone mise la zampa sulla testa del drago e tornò immediatamente alla sua forma umana. Anche il drago tornò alla sua forma umana e si trasformò nella principessa Asteria. Non appena furono liberi, la principessa Asteria guardò il principe leone e se ne innamorò. Immediatamente lanciò un incantesimo su di lui, prese il principe tra le braccia e scomparve magicamente. No! La principessa Amelia pianse per il suo amato principe, ma proprio in quel momento ci fu una leggera brezza di vento che le diede coraggio. Andrò dovunque soffi il vento e andrò finché il sole tramonterà e sorgerà all'orizzonte. Cercherò in lungo e in largo finché non troverò il mio principe. Salì sulla schiena del grifone e seguì la direzione del vento. Andò e andò fino a quando incontrò un castello dove il vento smise di soffiare. Amelia capì che era lì che si trovava il principe. Ringraziò il grifone ed entrò nel castello. Quando parlò alla gente del regno, le dissero della grande festa che ci sarebbe stata per celebrare il matrimonio del principe e della principessa. «Oh cielo, aiutami!» Proprio allora Amelia aprì lo scrigno che le aveva dato il sole e ne uscì un bellissimo vestito, luminoso come il sole. Aprì anche l'uovo che la luna le aveva dato e ne uscì una gallina d'oro. Entrò nel castello indossando l'abito e portando la gallina d'oro. Tutti la guardarono con stupore, inclusa la futura sposa. La principessa Asteria fu così stupita dall'abito di Amelia e dalla gallina d'oro che si avvicinò immediatamente a lei. «Questo vestito è magnifico! Vorrei comprarlo da te insieme alla gallina. Potrai averlo, ma in cambio devi farmi parlare con lo sposo nella sua camera stasera». La principessa Asteria era titubante, ma lei voleva il vestito e la gallina così intensamente che alla fine acconsentì. Più tardi quella notte ordinò al ciambellano di dare al principe leone un sonnifero. Il principe, che era nelle vicinanze, udì alcuni mormorii e chiese al ciambellano di cosa si trattasse. Il ciambellano confessò al principe che gli era stato ordinato di mettere un sonnifero nella sua bevanda, perché una povera ragazza doveva andare nella sua stanza quella notte. «Versa la bevanda e mettila vicino al mio letto». Quella notte, mentre la luna splendeva, la principessa Amelia fu portata nelle camere per parlare con il principe. Il principe leone, nel frattempo, fece finta di dormire. «Negli ultimi 7 anni ti ho seguito mentre volavi in giro per il mondo. Sono stata dal sole, dalla luna e dai 4 venti per cercarti. Ti ho aiutato a sconfiggere il drago. Mi dimenticherai ora?» Riconobbe immediatamente la voce della sua cara moglie. «Per la prima volta sono veramente libero, perché è stato tutto come un sogno. La principessa Asteria mi aveva lanciato un incantesimo, facendo sì che ti dimenticassi, amore mio. Ma il tuo amore mi ha salvato e ha rotto quell'incantesimo». «Oh, mio principe, sono andata all'estremità della terra per trovarti. Sono contenta di averti finalmente ritrovato». «Sbrighiamoci e usciamo da questo posto prima che la principessa incantata ci trovi». Il principe e la principessa uscirono silenziosamente dal castello, poiché avevano paura che la principessa Asteria potesse catturarli. Salirono sul grifone che li portò sul Mar Caspio e li riportò al loro castello nella foresta. Quando arrivarono a casa, tutti i leoni tornarono alla loro forma umana e furono contenti. Il principe leone non sapeva come ringraziare la principessa Amalia. L'amava così tanto, perché era grazie alla sua determinazione e volontà che avevano finalmente ritrovato la felicità nelle loro vite.